2024 2024 di Enrico Pagliarini. Inizia una nuova puntata di 2024. Oggi Pietro Lacorte si occupa della parte tecnica. Ciao Pietro, benvenuto. Questo è 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Ogni settimana ci chiediamo e cerchiamo di capire come la tecnologia ci cambia la vita. Il nostro numero verde per chiamarci già da questo momento, se volete, 800240024. Poi ci sono varie modalità, potete utilizzare Facebook, Twitter, gli SMS o anche l'email, ma di questo parleremo più tardi. Iniziamo con una delle notizie della settimana, perché questa settimana l'ICANN, l'ente mondiale che gestisce i domini internet, ha pubblicato una lista, pensate, di 1900 nuovi domini internet di cui è stata richiesta la registrazione. Ci potranno essere ad esempio i .apple, .samsung, .amazon, .google. Se avessi fatto la richiesta ci potrebbe essere anche un .pagliarini, oppure nomi di città, .madrid, .paris o Paris. Insomma, una versione più evoluta e personalizzata dei classici domini di primo livello, come quelli geografici tipo il .it, l'italiano.it, o i domini di genere come il famoso .com, che sta per commercial. In questo modo un'azienda che avrà un dominio personalizzato potrà costruire un sito web con un indirizzo del tipo panda.fiat. Ma mentre registrare un normale dominio costa poche decine di euro all'anno, per ottenere questa, chiamiamola, vetrina digitale, si deve sborsare un sacco di soldi. Allora ne abbiamo parlato, partendo proprio dai soldi che bisogna pagare, con Claudio Corbetta, che è amministratore delegato di Dada, collegato con noi via Skype. Dada è uno dei principali, tra le altre cose, registrar in Europa. Allora, solo per preparare e presentare la richiesta, le società hanno dovuto sborsare $185,000 più tutta una serie di altre commissioni accessorie, quindi parliamo comunque di un intorno ai $200,000 come minimo solo per presentare la richiesta. Dopodiché, se la richiesta sarà approvata, dovranno sostenere i costi proprio di gestione di tutta l'infrastruttura e quindi, diciamo, di mantenimento della società e dell'infrastruttura stessa. Ricordiamo che ci sono richieste per domini generici, cioè nomi generici come .home, sono quasi tutti in inglese, nomi tipo love, tipo you, cose di questo genere. E poi ci sono brand famosi, quindi .google, .apple, .fiat. Tra l'altro Fiat è, direi, l'azienda, non sono tantissime le aziende italiane, ma l'azienda italiana che ha fatto la richiesta maggiore, perché è stato richiesto .Maserati, .Ferrari, .Fiat, .Lancia, .Alfa Romeo, .Abarth, .Iveco, cioè sono scatenatissimi. Ma in generale, vedendo le richieste che sono state fatte, che tipo di idea vi siete fatti? Cioè, vi aspettavate così tante richieste? Pensavate che le cose andassero in un altro modo? Prima, allora, tutta questa gara, che poi è effettivamente stata lanciata tra il gennaio e il giugno di quest'anno, si è proprio conclusa, abbiamo visto qualche giorno fa con le richieste, è qualche anno che se ne parla, quindi c'era una grandissima aspettativa tra gli operatori del settore, ma anche le società o appunto i comuni, gli enti geografici che volevano parteciparsi. Ci aspettavamo obiettivamente sì tra 1500 e 2000 richieste, questo era un po' quello che si diceva sul mercato. Devo dire che forse noi personalmente ci aspettavamo un po' di più di richieste di nomi geografici, che erano, si sentiva molto, molte città che dicevano: noi vorremmo avere il nostro dominio anche qui, solo per scopi loro, non per rivendere poi sottodomini, ma per, diciamo, in qualche modo posizionarsi in rete. Forse mi aspettavo un po' meno di nomi generici, chiamiamoli strani, o forse, adesso non vorrei sembrare controverso, ma anche inutili poi per accaparrarsi uno spazio in rete. Sì. La richiesta dei grandi brand ha un po' marcato o, diciamo, confermato quella che è oggi l'internet. I grandi brand statunitensi, che in qualche modo sono molto esposti e molto più in qualche modo avanti, o anche come pensiero, no? Nel bene o nel male, hanno cercato di o cercheranno di registrare il proprio nome. E attribuisco anche le varie richieste di Fiat a una presenza molto, molto statunitense dell'azienda, probabilmente in un'epoca passata sarebbe stata un po' meno visibile. Tanto che appunto vediamo che anche i grandi brand italiani, purtroppo solamente pochi e qualcuno di veramente internazionale ha deciso di coprirsi il proprio nome. Sì. C'è da dire che non ci sarà nessun fenomeno di quello che viene chiamato il cyber squatting, quindi se oggi il punto brand che non ha registrato, che non ha richiesto il proprio dominio, non l'ha fatto, non lo potrà fare nessun altro, quindi non siamo in una situazione dove era strettamente necessario appunto visti i costi. Lo potrà fare in futuro o chiusa questa finestra non ci si potrà più registrare? Direi che almeno per alcuni anni non riapriranno finestre. Qui stiamo parlando appunto di 2000 richieste, passeranno come minimo dai 2 ai 4 anni per vederli proprio live su internet, e quindi un secondo giro di questo genere, se verrà fatto, non lo vedo prima di qualche anno. Quindi diciamo il punto Venice, il punto Milano, che Florence, esempio, o Milano, che con l'Expo poteva essere una buona idea, non potranno più essere presi. No, ma almeno per un, momento, per un po' di almeno tempo. Almeno per uno, probabilmente non prima del 2015. Beh, sicuramente scorrere questa lista è divertente perché si vedono insomma richieste anche molto simpatiche, molto divertenti. Attualmente, in quanto diciamo il prossimo step per cominciare ad assegnare questi nomi, quanto tempo dovrà passare? I più ottimisti dicono che entro i prossimi mesi l'ICAN, che oggi ha ricevuto tutte le richieste, le scorrerà e inizierà ad attribuire. Allora, solo una piccola premessa: per presentare la richiesta era necessario compilare una modulistica, ma anche presentare, diciamo, un business plan e un'infrastruttura o una partnership con chi gestirà l'infrastruttura tecnologica molto importante, oltre a quello che dicevamo prima, i $185,000. Quindi le richieste non sono un semplice modulo online, ma sono dei documenti molto corposi. Oggi l'ICAN con i suoi partner vaglierà tutte le varie richieste. I nomi che sono stati richiesti una sola volta, quindi diciamo univoci, potranno essere i primi ad essere dove loro decideranno se mancano degli elementi oppure se la richiesta è andata a buon fine, quindi possono assegnare il dominio. Quindi tutti quelli che hanno una sola entrata in qualche modo potranno essere i primi poi ad essere gestiti. I domini invece che sono stati richiesti in modo multiplo, quindi da 2 a credo 13 volte per il punto app, ci saranno una prima scrematura di chi ha presentato ma non ha i requisiti o non ha tutti i dettagli, e poi si entrerà invece in un periodo ulteriore di gara per decidere a chi assegnare questi nomi che sono stati chiesti in modo diciamo contestuale da più società. Sì, sì. Quindi io direi da forse 6 mesi per vedere i primissimi, magari quelli geografici che sono inequivocabili, utilizzati in qualche modo, però anche 6 mesi è veramente ottimista, a più di 2-3 anni per vedere invece assegnati i nomi, diciamo, più, chiamiamoli, o controversi o contesi, e poi lanciati direttamente come opportunità in rete. Quindi ad esempio nel caso del punto app, che è stato probabilmente quello più richiesto, quindi ci sarà questa competizione, ci potranno essere, che ne so, tutti i nomi o comunque molti nomi di applicazioni, che ne so, pippo.app, paperino.app, eccetera eccetera. Questa è un po' l'idea. Questa è l'idea, sì. Dal vostro punto di vista, da esperti, visto che noi ogni tanto parliamo di domini perché sicuramente la presenza su internet è, in un'economia digitale, fondamentale, così come lo era e come lo è ancora naturalmente oggi, avere il negozio su una via molto trafficata, però sicuramente in un'economia digitale avere un buon nome a dominio su internet è molto importante. Però fino adesso il grande successo continua ad averlo il .com. O il punto it o il punto geografico per le altre nazioni. Voi vi aspettate che abbiano successo questi? Cioè avere, che ne so, facciamo il caso della Fiat, poi vedremo se riuscirà a guadagnarsi tutte le richieste che ha presentato, ma avere, che ne so, i nomi delle macchine, che no, panda.fiat invece che un sottoinsieme del fiat.com. Cambia così tanto le dinamiche su internet? Allora, in questo particolare caso, quindi i brand che hanno richiesto i propri nomi, io lo vedo semplicemente come un, chiamiamolo un vanity domain, cioè un qualcosa per poter promuoversi ulteriormente, non necessariamente per essere trovati più facilmente o per, quindi è un semplicemente per essere un allargamento. un po' più cool, come si direbbe negli Stati Uniti. Sì, e per poi diciamo allargare le possibilità. Oggi quello che vediamo è molte grandi aziende hanno tutti i domini di cui necessitano e poi le pubblicità le fanno Facebook / nome del brand, quindi ci siamo arrivati a questi paradossi dove a seconda, o comunque anche diciamo iniziative interessanti di marketing dove a seconda del canale si utilizza il modo migliore per farsi poi trovare in rete, quindi mi aspetto sicuramente che a un certo punto si vedrà nelle pubblicità vai su panda.fiat, in alcuni casi magari si indirizza un pubblico più giovanile su Facebook/Fiat e invece direttamente magari per un mondo più corporate sarà un dominio più standard, quindi quello assolutamente sì, mentre i nomi generici che invece ambiscono in qualche modo a sostituire o essere affiancati agli attuali nomi geografici che hanno un buon successo nei vari stati e il .com che è il dominatore indiscusso con oltre 100 milioni di registrazioni, io credo che con l'esperienza che abbiamo visto in questi 12 anni al meglio copriranno delle nicchie, sicuramente dei diciamo milioni di registrazioni saranno più difficili, a meno che come ad esempio nel .app non sia, adesso non ho idea sinceramente chi lo prenderà, se Amazon, se la Apple, se chiunque altri, però se facciamo l'esempio Google riuscirà a farsi attribuire il .app e decide che tutti gli sviluppatori che mettono sull'Android Market un'applicazione devono registrarla sotto il .app, in quel caso immediatamente si apre in qualche modo un mercato, un'identificazione con centinaia di migliaia, forse milioni di applicazioni, quindi in quel caso sì, per il punto home lo vedo un po' più difficile perché dovrà passare attraverso i canali standard e tradizionali che sono quelli delle società provider di domini come può essere la Registerite Dada che poi in qualche modo hanno se vogliamo un intasamento di nomi di dominio e quindi la promozione e il consiglio verso i clienti dipenderà da quello che i clienti vogliono di più. Sì, certo. Chiudendo e tornando a, diciamo, siamo partiti dicendo che questi nomi a dominio sono per pochi anche perché costano molti soldi, invece tornando ai domini più classici e ricordando che appunto è importante anche per una piccola azienda, anche per un privato avere una presenza su internet, quanto costa avere un nome a dominio registrato anno per anno? Con la Registerite, che è la società di Dada che opera in Italia, 35 euro più IVA e con questo si può già diciamo creare un primo proprio sito, con non più di 100 euro l'anno si possono avere tutti gli strumenti anche professionali per avere una presenza in rete molto seria. Quindi insomma con alcune decine di euro, assolutamente sì, per le aziende, per le piccole aziende, ma anche per chiamiamo i privati professionisti, sono costi assolutamente affrontabili. Questo è un tema molto interessante, molto anche potremmo dire anche curioso, perché ci sono tutti questi nomi. Potete andare sul sito internet dell'ICANN e scorrere tutte le richieste, sono 1900, ma ce ne sono alcune divertenti. Per l'Italia non molte. Praxi ha chiesto il punto Praxi, la Ferrero ha chiesto il punto Kinder e come dicevo poco fa anche la Fiat ha fatto una lunghissima serie di richieste all'ICANN. Tra poco sarà con noi il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Francesco Profumo. Parleremo tra le altre cose di Digitalia, perché alcuni si chiedono dove è finito questo decreto che doveva contenere tutta una serie di norme per mettere in pratica l'agenda digitale in Italia. Mi permetto di salutare Luca Figini. Ciao Luca, benvenuto 2024, bentornato. Grazie Enrico, ciao a te e buongiorno a tutti. Allora, Luca Figini che lavora anche per il Sole 24 Ore e cura l'edizione di portatili e tablet, ci parlerà in modo particolare di ultrabook. Che cosa sono? Ma gli Ultrabook sono, è un progetto Intel. Pensi, Intel sì. Ci ha speso 300 milioni in quasi due anni. Per sono sviluppare. Dei telefoni o sono dei? Sono dei portatili. Sono dei portatili molto computer compatti. Portatili. Computer portatili che pesano poco, durano tanto e hanno caratteristiche particolari. Benissimo. Allora, tra poco il ministro Profumo e poi parleremo con Carolina Milanesi e Luca Figini di Ultrabook, partendo anche dagli annunci, dagli ultimi annunci di Apple. Tra poco. Allora, sapete che ieri è stato approvato, varato l'attesissimo decreto per lo sviluppo, che poi dovrà essere approvato dal Parlamento, quindi non siamo arrivati alla fine corsa. Comunque, tra le novità introdotte dal decreto sviluppo e che ci riguardano, novità che ci interessano, c'è anche la creazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che dovrà coordinare le azioni dell'Agenda Digitale Italiana. L'agenzia sostituisce DigitPA, l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, e il Dipartimento per la digitalizzazione nella pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio, che vengono così soppressi. Io sono contento quando vengono soppresse cose create razionalizzando. Seconda novità, l'obbligo di pubblicare su internet ogni contributo pubblico che superi 1000 euro. Questo è un esempio di open data. Ricorderete, abbiamo dedicato una parte della nostra trasmissione agli open data, molto interessanti. Sono dati che l'amministrazione pubblica possiede e che devono essere resi pubblici per vari motivi, per trasparenza, per democrazia. Devono essere resi pubblici, devono essere resi disponibili e riutilizzabili da tutti su internet. Allora, dicevamo che c'è questa agenzia, ma fatta l'agenzia uno potrebbe dire, manca l'agenda digitale di cui si parla da un po' di tempo. Il tutto dovrebbe finire dentro ad un decreto che si chiamerà Digitalia. A questo decreto sta lavorando una cabina di regia fra tre ministeri su alcuni temi e alcuni ipotizzano che Digitalia arriverà, verrà varato entro l'estate. Di questo abbiamo parlato con il ministro dell'istruzione e della ricerca Francesco Profumo. Il decreto sarà la sintesi del lavoro che è stato fatto in questi quattro mesi, partendo dalla cabina di regia. All'interno di Digitalia ci sarà la sintesi di questo lavoro, ci saranno le norme perché il Paese possa attrezzarsi dal punto di vista normativo rispetto a questa tematica e ci saranno le risorse. Senta, a proposito di pubblica amministrazione, che cosa pensate possa fare in questo ambito di trasformazione digitale la pubblica amministrazione? Quali sono anche i tasselli su cui puntare? Beh, la pubblica amministrazione può diventare uno dei driver dell'operazione. Può diventare uno dei driver perché coinvolge tutto il Paese, perché all'interno della pubblica amministrazione ci sono due elementi centrali. Uno, la scuola, e il secondo, i servizi ai cittadini tutti. La grande rivoluzione sarà quella che il cittadino non andrà più al servizio, ma il servizio andrà al cittadino. È chiaro che questo è un processo di tipo culturale, ed ecco il tema scuola, perché sono circa 10 milioni gli studenti in Italia, 8 delle scuole e 2 dell'università, e quindi loro, oltre ad essere gli attori in primis di una generazione che è stata alfabetizzata dal punto di vista digitale, sono i migliori ambasciatori rispetto ad una comunità più ampia, che è quella delle loro famiglie, dei loro conoscenti. Quindi il fatto che loro possano trasferire questa loro cultura è un elemento centrale. Credo che questi siano processi irreversibili. Sono processi irreversibili perché ormai, questo ce lo dobbiamo dire con una certa sincerità, l'autonomia nazionale su questi processi è un'autonomia molto limitata. I vincoli, in questo caso in positivo, dell'Europa sono molto molto forti. Quindi, e d'altra parte c'è questa onda dei nostri nativi digitali che entra nel mercato del lavoro. Ed è un'onda che non si può contenere, questo è ancora il mio tema, è un tema fondamentalmente di cultura, di generazione. Il secondo tema è che nella pubblica amministrazione, per la mia esperienza, è necessario incominciare a fare degli inserimenti di profili di persone che non sono quelli tradizionali della pubblica amministrazione, cioè perché questi processi diventino processi allargati ci vogliono statistici, ci vogliono matematici, ci vogliono ingegneri, ci vogliono fisici e ci vogliono forse un po' meno giuristi. Senta, le faccio una domanda su due temi che ho sentito ascoltandola in altri interventi che le stanno a cuore ma che ritengo siano importanti. Quello degli open data e quello del riuso del, non solo del software ma proprio delle esperienze. Da questo punto di vista ci sarà qualcosa nel decreto? Cioè, perché, come dire, il cambiamento culturale deve essere anche in qualche modo imposto. Deve essere guidato e guidato con un certo centralismo. Il tema dei grandi dati e poi della messa a disposizione dei dati in modo pubblico riutilizzabili è un elemento di grandissima attenzione da parte mia. Io ho una cultura in questo settore abbastanza radicata ed è prima di tutto un atto di grande democrazia, di grande trasparenza, il mettere a disposizione di tutti i dati e non nasconderli. Credo che sia un elemento di crescita profonda culturale del paese. Ma nello stesso tempo, e questo non sempre è così evidente, può essere il moto di una nuova economia. Il trattamento di questi dati in alcuni paesi ha creato una nuova filiera di tipo imprenditoriale di grandissimo interesse. Quindi questo è un elemento sul quale il paese deve fare una riflessione ed è chiaro che se riusciamo a guidare centralmente questa operazione può essere estremamente positivo. Sul tema del riuso, credo che sia noto che esiste una norma in cui si indicava il riuso. Probabilmente non è stato sufficiente. Il nostro paese ha fatto moltissimi investimenti, anche di buono, di ottima qualità, per molte applicazioni. Poche di queste sono diventate prototipi, quindi utilizzate da comunità più ampie, pochissime sono diventate progetto paese. Noi oggi abbiamo una grande opportunità, che è quella del cloud. Se allora noi connettiamo il cloud, l'infrastruttura di rete e il riuso, e quindi il riuso, il fatto vuol dire avere piattaforme che siano di tipo generale per il paese, possano essere e non stanno più nel server della singola azienda o della singola amministrazione, ma vengono riportate a livello più alto della nuvola, credo che avremo fatto un grande progetto paese. È chiaro che andando in questa direzione si può poi pensare al censimento online. Nel momento in cui avviamo un processo di questo genere, ci si può chiedere se il censimento deve avvenire ogni 10 anni o può essere un censimento che viene aggiornato quotidianamente, e perché possa essere fatto questo è chiaro che le anagrafi devono essere centralizzate. Quindi è un grande momento dal punto di vista. Se dovessimo dire, potrebbe essere un po' dal punto di vista storico, naturalmente con tutte le modificazioni del caso, un qualche cosa di analogo a quello che avvenne negli anni 50 con l'automobile, dove si partì dall'automobile, ma poi si passò alle infrastrutture, poi si passò a un nuovo disegno delle città, a un nuovo disegno del commercio, a un nuovo disegno del modo di vivere. Ecco, io credo che in questo momento ci sia una situazione un po' analoga. Bisogna essere bravi, ci vogliono degli architetti di questo modo di essere. Certamente è un momento stimolante da questo punto di vista. Beh, interessante, perché se vi segnate alcuni concetti che il ministro ha espresso, stiamo parlando di un cambiamento culturale anche all'interno del governo. Poi alcuni di voi diranno, ma anche io dico, beh, poi questo Digitalia dovrà essere fatto, firmato, approvato, e questo sicuramente dovrà avvenire, anzi auspichiamo che queste norme diventino legge molto presto, perché l'agenda digitale italiana non può più attendere. Però è sicuramente un passaggio culturale molto interessante che un ministro dica ci vogliono nuove figure professionali più tecniche e tecnologiche all'interno della pubblica amministrazione, perché più che la tecnologia serve fare è necessario fare un cambiamento culturale. La pubblica amministrazione può effettivamente diventare un driver per mettere in pratica l'agenda digitale. Certo, è un processo molto complicato, visto che la pubblica amministrazione non si è rinnovata da molto tempo. Tuttavia ci sono delle cose positive e alcune cose si possono fare. Pensate ad esempio al lavoro che ha fatto l'Agenzia delle Entrate per digitalizzare il fisco, e questo è sicuramente un esempio di buona amministrazione pubblica, che può sicuramente essere semplificata, anzi dovrebbe essere semplificata. Però poco fa, tra le altre cose che si possono fare e che dovrebbero essere fatte un po' di più dai cittadini, Claudio Gabbi su Facebook ci scrive: ieri ho pagato l'IMU da casa su internet e mi sembrava di essere nel paradiso digitale. Anche io la scorsa settimana col mio papà ci siamo messi davanti al computer, abbiamo pagato con l'F24 tramite la banca, dicendo il 18 paga l'IMU, ed è interessante. Se andate sul sito internet del Sole 24 Ore trovate un comodo schema che vi aiuta a calcolare la IMU, quindi internet aiuta. E infatti quando leggo sui giornali, che leggo effettivamente poco perché guardo molto internet, però che ci sono le file, mi sembrano cose del Medioevo. Usate la tecnologia è a disposizione e quella che già oggi è a disposizione va utilizzata. Bene, se volete riascoltare l'intervista al ministro Profumo, che, come ribadisco, esprime dei concetti interessanti, pensate ad esempio a quello che dice sul riuso delle tecnologie. Pensate quante amministrazioni sprecano denaro perché non vogliono copiare, prendere a prestito cose che altre pubbliche amministrazioni hanno fatto. Perché ogni amministrazione deve avere un proprio sito internet, una piattaforma propria, oppure una piattaforma per far pagare le multe? Ne basta una, basta cambiare il logo. Questo è 2024, ci fermiamo, ci sono le notizie di GR24. Vi ricordo che tra poco parleremo di computer portatili con Luca Figini nel nostro studio, Carolina Milanesi, che si è collegata con noi via Skype. Il nostro numero verde 800 24 0024, gli sms 349 238 6666. A tra poco. 2024. Le 16 e 6 minuti di questa è 2024, la nostra seconda parte in cui parleremo di computer portatili, per un motivo, perché all'inizio di questa settimana la Apple ha riunito a San Francisco gli sviluppatori, quelli che costruiscono le applicazioni, il software per computer portatili, tablet, smartphone, eccetera, eccetera, e ha fatto una serie di annunci, e tra questi annunci ci sono alcune novità che riguardano i computer portatili della Apple. Ma naturalmente questo ci offre l'occasione per parlare del mercato. È da un po' che non parliamo di computer portatili. Saluto Luca Figini, che è un grande esperto di computer portatili, ne prova tutte le settimane. Ciao Luca, bentornato. Ciao, buongiorno a tutti. Ne provi tutte le settimane? Cosa vuol dire? Che tutte le settimane provi 1, 2, 3, 4, 5, quanti? Una media di 2 più o meno, poi dipende, ci sono periodi in cui ne arrivano molti di più. E beh, certo, dipende esatto dai periodi. Adesso ne arriveranno un bel po'. Sì? Perché c'è appena stato il Computex, quindi arriveranno tutti i nuovi ultrabook. Computex a Taiwan? A Taiwan. Sì, una delle fiere da Techno Geek, più una volta era più famosa questa fiera, arrivavano grandi novità, adesso un po' meno direi. Beh, quest'anno ce ne sono state un po', sì, più che altro è molto legata al mondo computer, appunto, per cui magari c'è l'attenzione su altre questioni in questo momento, sulla mobility, sugli smartphone, per cui magari passa un po' in secondo piano, però in realtà di novità ce ne sono. Esatto. Prima però di parlare di questo, potremmo dire a grande richiesta, visto che alcuni ci hanno scritto durante la settimana ricordandoci questo altro annuncio di cui vogliamo parlare, Apple, cosa che si era tra l'altro già detta qualche giorno prima per via di una serie di indiscrezioni, ha annunciato che abbandonerà, direi da settembre massimo ottobre, perché tra settembre e ottobre dovrebbe uscire l'iPhone 5, in autunno è stato detto che arriverà il nuovo sistema operativo iOS 6, che quasi certamente andrà su questo nuovo iPhone, giusto? Andrà su un nuovo iPhone, verosimilmente sul 4S, probabilmente anche sul 4. Però sicuramente sul 5. Sicuramente sul 5. Esatto, quindi diciamo battezziamo settembre, poi che sia ottobre, più o meno, quello è il periodo. Allora, su questo nuovo sistema operativo, Apple ha detto: noi abbandoneremo le mappe di Google. Fino ad oggi sui prodotti Apple le mappe che venivano utilizzate erano le Google Maps, con tutti i servizi collegati, non proprio tutti i servizi collegati, ma insomma i più utilizzati. Cosa è successo? Ma ti dico, hanno abbandonato le Google Maps, nel senso che iOS 6 è già scaricabile, purché tu ti registri come developer, quindi come sviluppatore nel sottosito di Apple, e investendo tanti euro l'anno, sei registrato come sviluppatore, puoi scaricare tutti i nuovi sistemi operativi, tra cui iOS 6. Quindi è già scaricabile iOS 6, è già installabile. Però diciamo che dal grande pubblico no. Il grande pubblico deve aspettare ancora fino a settembre-ottobre. Però volendo si può già installare, e se tu lo installi trovi già che le mappe, nell'applicazione mappe, non ci sono più le mappe Google, bensì quelle TomTom. Ah. Questa è la vera novità. TomTom ha invaso anche l'iPhone, anzi per la verità è un accordo strategico. Ora non si sanno quali siano i contenuti dell'accordo, perché entrambe le società hanno fatto uno striminzito comunicato dicendo da oggi mappe sarà basato su tecnologia TomTom e sui servizi TomTom, punto, sì, basta. Sì, sì, diciamo che poi all'interno di questa nuova strategia ci sono vari tasselli, perché io negli ultimi 2 o 3 anni ogni tanto leggevo, ma insomma tutti noi abbiamo letto, che Apple acquistava una società, tal dei tali, specializzata in cartografia, l'altra in riproduzione di mappe 3D, e tutti dicevano ma che cosa se ne fanno di queste aziende. Ecco, il risultato è questo nuovo servizio. Tu le hai provate, come sono queste mappe? Perché molti si preoccupano e dicono ma come, mi togli le Google Maps che sono fondamentali, bellissime, eccetera eccetera. Allora, Google Maps, poi tranquillizziamo gli ascoltatori, si può comunque continuare a utilizzare attraverso la web app. Quindi se tu vai su m.google.com/maps puoi comunque continuare a utilizzare le Google Maps, chiaramente all'interno del browser, quindi con la localizzazione, con i punti di interesse. Non verrà fatta un'app? Verosimilmente no. Non gliela provano, eh? Magari gliela provano anche, ma con la nuova applicazione mappe, ti assicuro, è molto meglio utilizzare il servizio proposto da Apple. Per una serie di motivi, innanzitutto perché le mappe di TomTom sono molto belle, sono verosimilmente le stesse che trovi all'interno dell'applicazione TomTom di navigazione, e poi hai il servizio di navigatore vero e proprio, quindi puoi creare l'itinerario e farti guidare passo a passo verso la meta, che è la vera novità. Poi non solo le mappe sono nuove, sono nuovi servizi. Finora tu potevi attivare mappe, oggi puoi attivare mappe e avere le informazioni su dove sei, sui punti di interesse, sui luoghi che ti circondano. Ma attenzione, questo ci interessa sottolinearlo: quando con mappe tu crei l'itinerario verso una meta, in realtà tu non hai navigazione, quello non è navigazione, quello non è un navigatore, ti dice che percorso devi percorrere per poter arrivare a una certa meta, da A a B. Ma quello che manca, che rende l'applicazione un vero navigatore, sono istruzioni vocali, istruzioni passo a passo, che si aggiornano mano a mano che tu percorri la strada. Gira a destra, gira a sinistra. Gira a destra, gira a sinistra. Questa è la prima novità. La seconda novità è che hanno il traffico. Il traffico è verosimilmente quello... Io uso il termine verosimilmente perché mancano i contenuti dei dettagli. Cioè tu non sai, come dire, sai il risultato finale. È molto probabile, visto che TomTom sicuramente ha tra i migliori servizi di suggerimento del traffico nel mondo, è molto probabile che dietro questo accordo ci sia anche questa fornitura di servizio. Sì, perché il traffico assomiglia molto all'infotraffico di TomTom, dell'applicazione TomTom. Le mappe sono quelle, quindi in questo momento gli americani la chiamerebbero una black box, cioè una scatola nera nel quale tu vedi il risultato ma non sai quello che c'è a monte. Sì, sì. Sicuramente questa è anche una buona diversificazione per TomTom, vista l'erosione del mercato dei navigatori tradizionali, visto che TomTom stava guardando ad altro e gli smartphone sono sicuramente un mercato, questo è un bel accordo. Io direi che ci sono 2 buone notizie. La prima è che finalmente anche l'iPhone e l'iPad avranno un servizio di navigazione gratuita, come Android, come Windows Phone, eccetera. Sì, in questo caso Apple, diciamo, ha rincorso, cioè è arrivata dopo gli altri. Ho l'impressione che abbia sottovalutato l'importanza di questo servizio. Sì. L'altra buona notizia che è invece che i produttori di navigatori si stanno abituando che il PND, quindi il navigatore personale, quello con l'hardware dedicato, eccetera, quello che si mette in macchina, non è più un mercato dove si fanno i numeri. Dove si fanno i numeri è sui servizi, e quindi i servizi sono i servizi che si chiamano georeferenziati, cioè quei servizi che ti permettono di avere informazioni in base alla coordinate geografica, in base alla posizione in cui ti trovi. È su qui dove si combatte la lotta, perché A fronte di un servizio gratuito che è la semplice navigazione, si possono costruire ecosistemi di servizi aggiuntivi e quindi monetizzare una serie di informazioni che nel frattempo TomTom piuttosto che altri hanno accumulato. E quindi lo scenario si amplia notevolmente proprio grazie agli smartphone. Benissimo. Dunque adesso ci fermiamo per un minuto, ci sono le notizie che arrivano da strada e autostrada e poi iniziamo a parlare di computer portatili, perché dicevo prima, la Apple ha fatto una serie di annunci, quindi l'occasione è buona per parlare di un mercato molto interessante che fa milioni di pezzi venduti ogni anno, ma di cui parliamo poco a 2024. Ci risentiamo tra un minuto. 2024. All'inizio di questa settimana la Apple, che ha incontrato gli sviluppatori a San Francisco, ha fatto alcuni annunci che riguardano sia i MacBook Air sia la fascia Pro, quindi MacBook Pro. E secondo alcuni questa è stata la parte più interessante della conferenza degli annunci fatti da Apple. Tra questi c'è anche Carolina Milanese, che abbiamo sentito questa settimana, collegata con noi da San Francisco via Skype. Carolina Milanese è, lo ricordo, vicepresidente di Gartner e si occupa proprio del mercato, del segmento dell'elettronica di consumo. Questa è stata, secondo me, la parte più interessante dell'evento di lunedì, dove hai visto proprio l'intenzione di Apple di far entrare la famiglia Mac all'interno del successo che stanno avendo dalla parte mobile, e quindi dare la possibilità, specialmente agli sviluppatori, di vedere che questo ecosistema che l'Apple sta creando va al di là di iPhone e iPad, ad abbracciare proprio anche la parte del PC. PC che cambia, che non è più quello di una volta, che viene soltanto utilizzato per lavorare, ma che diventa uno strumento di consumo mobile e che quindi si deve adattare a quelle che sono le nuove condizioni che il consumatore vuole da questo nuovo sistema di computer, e abbiamo visto alcuni cambiamenti proprio dal fatto della nuova linea, diciamo della nuova generazione del Pro, che diventa più leggero, ma anche che ha adesso uno schermo fenomenale con la Retina Display, che è la stessa tecnologia che viene usata sull'iPhone e sull'iPad, ma anche, diciamo, cambiamenti per esempio proprio sull'hardware, dove a livello di memoria è tutto flash, per aiutarti a essere più rapido a livello di booting del PC e di essere più flessibile, quello che un consumatore vuole fare adesso quando non sta legato a una sedia e una scrivania. Quindi sicuramente Apple, facendo leva sul successo che ha avuto nel mondo della telefonia mobile e dei tablet, quindi con iPhone e con iPad, cerca di rivitalizzare questo business. In questo caso però, mentre diciamo i prezzi sia di iPhone sia di iPad, anzi soprattutto di iPad, sono competitivi con il resto del mercato, in questo segmento, quello dei PC, mi sembra di capire che, certo, tecnologia all'avanguardia, ma prezzi di tutto riguardo. Sì, diciamo di sì, ci sono stati due annunci, no? Quello del MacBook Air, che arriva con tecnologia migliore ed avanzata e un prezzo inferiore a quello precedente. Hanno riabbassato di circa $100, secondo noi mettendo una pressione non indifferente a tutti quei venditori che stanno cercando di prendere l'opportunità del mercato ultrabook di Intel e cercare di arrivare a rivitalizzare il loro portafoglio prodotti. E poi invece la nuova generazione, che viene a un prezzo non indifferente, ma che però non è per tutti. Diciamo che la nuova generazione del MacBook Pro è per un utente più professionale che ha delle esigenze particolari. E questo è il parere di Carolina Milanese, intervistatissima, però noi ci vantiamo di essere stati i primi tanti anni fa a cominciare a parlare con Carolina Milanese, anche per la chiarezza delle sue analisi. Allora Luca, diciamo che possiamo, per continuare questo discorso che ha introdotto Carolina Milanese, cercando di capire che il mercato oramai è segmentato in due, tre, non so in quante parti, parlando di computer portatili, e da qui poi, una volta segmentato il mercato, cerchiamo di capire dove si infila Apple e che tipo di strategia sta cercando di fare. Poi diamo anche dei consigli ai nostri ascoltatori sui portatili. Allora, iniziamo dalla segmentazione, che forse così iniziamo a dare un'indicazione di come ci stiamo muovendo. Il mercato dei portatili, dei computer portatili, diciamo, si declina in tre modelli. I netbook, che sono quelli piccoli con display fino a 10-11 pollici, super compatti con prezzi vantaggiosi. I portatili tradizionali, che sono i classici, che vanno dai cosiddetti desktop replacement, quindi il sostituto mobile del PC fisso, ai portatili che si trovano tradizionalmente sui punti vendita, quindi con 15 pollici, con uno chassis, un case abbastanza grosso, con abbastanza voluminosi. E poi ci sono gli ultrabook. Gli ultrabook è una, diciamo, la nuova categoria. È una nuova categoria di prodotto. Sì. In realtà, più che una nuova categoria di prodotto, è la formalizzazione di un prodotto che esisteva già. Perché Intel, che è un progetto Intel innanzitutto, l'Ultrabook, Intel per anni ha fatto quelli che si chiamano tecnicamente i CULV, cioè sono i processori a basso voltaggio e a basso consumo. Sono processori che consumano molto meno rispetto a quelli tradizionalmente utilizzati all'interno dei computer. Una volta questi Ultrabook si chiamavano sub-notebook, sottoportatili, portatili compatti, portatili sottili, avevano tanti nomi. Hanno deciso di prendere questa categoria eterogenea e di unificarla sotto determinate specifiche. Infatti l'Ultrabook, affinché si chiami Ultrabook, deve rispondere a un identikit. Questi portatili innanzitutto devono costare poco, cioè Intel sostiene che debbano costare, quantomeno il modello base, sotto i $1,000, quindi più o meno sotto i €1,000. Alla mazza del poco. Poco relativamente, perché ecco, sono pochi poi i modelli che costano sotto i €1,000, nel senso che alla fine poi tutti i produttori sono proposti come antagonisti del MacBook Air, che è, come dire, capostipite quantomeno nella logica, nell'idea di questi Ultrabook, perché Intel cosa ha fatto? Apple cosa ha fatto? Ha creato il MacBook Air, il 13 pollici, il primo, 3 anni fa, perché era super sottile, con questi processori a basso consumo, eccetera. Un anno e mezzo dopo Intel ha detto: caspita, questo progetto funziona, lo faccio mio, lo miglioro, lo perfeziono e lo rendo una sorta di commodity per tutti i produttori, in modo tale che io preparo tutto l'hardware e ciascuno lo personalizza col design. Una piattaforma che tutti possono utilizzare, come aveva fatto col centrino. Ha fatto con i netbook, per assurdo. Sì. Come si fa con i tablet, anche perché anche i tablet hanno determinate specifiche. Allora, ti dico quali sono le specifiche, perché così gli ascoltatori sanno di cosa stiamo parlando. Sì, sì. Spessore di 21 millimetri, 2,1 centimetri. Peso inferiore a 1,5 kg. Prezzo, te l'ho già detto, sotto i €1,000. Autonomia compresa tra 5 e 8 ore. E queste sono le caratteristiche. Quanto deve pesare, scusa? Sotto il chilo e mezzo. Però non è che, cioè, se uno sta, diciamo, nella parte alta delle specifiche, non è che fa una gran macchina. Chilo e mezzo è una bella bestia. Beh, in realtà pesa circa mezzo chilo in meno della media di un portatile tradizionale. Però, sì, non è, potrebbe pesare che, anche un chilo. Sì. Poi non deve avere, anzi, lettore ottico. Deve utilizzare dischi fissi non a piatti, ma SSD, quindi a memoria flash. E soprattutto deve avere la piattaforma Intel i5, Core i5 e Core i7 all'interno di una categoria di prodotti che si chiamano i CULV, quindi i5 e i7 a basso consumo, bassissimo consumo. Perfetto. Questa è stata la prima generazione, 2011. Sì. Adesso è arrivata la seconda generazione, che consuma meno, che va un po' di più, che ha la scheda grafica rinnovata, che ha questo famoso Ivy Bridge, che è la nuova generazione della nuova piattaforma Intel, che consuma meno e dura di più, perché ha tutta una serie di caratteristiche. Sì, una tecnologia tridimensionale bellissima. Particolare, sì, USB 3.0, eccetera. Quindi, di fatto, è un giardino fortemente recintato, perché tu dici, io sono un ultrabook se faccio questa cosa qui. Ok. Senti, questi computer stanno avendo successo o siamo ancora in una fase super iniziale, nessuno li conosce? Ti dico, io li ho provati tutti, quelli che sono usciti finora. Se lo provi, il prodotto funziona benissimo, perché te lo metti in borsa, è leggero, perché è più leggero di un computer tradizionale, riesce a lavorare, ha un display da 13 pollici, se non risente degli urti, eccetera. La questione vera è che è, secondo me, comunicato malissimo, proprio te lo dico col cuore in mano. Intel non riesce a comunicarlo, a comunicare i vantaggi di questo prodotto, che sono instant on, quindi si accende subito. Ah, questo è bellissimo, come un telefonino, si accende subito. Ha Windows, consuma poco, dura tanto ed è un bel prodotto. Però poi alla fine lo trovi a scaffale all'interno degli altri. Quindi ti chiedi, costa 600, 700, 800 euro, addirittura 1.400 modelli top. Sono più leggeri e sembra che ti diano di meno, non hai neanche lettore ottico. E quindi, siccome certo, oggi il criterio di scelta è vado al negozio, guardo quanto mi costa, guarda che budget ho e prendo un tot al chilo, non si capisce perché uno debba comprare. Quali sono i vantaggi? Cioè, giusto per capirci, un computer portatile tradizionale con nemmeno troppe pretese, quanto può costare oggi? Ma lo trovi anche a dai 3-500 euro, 499 trovi già un 15 pollici con un core, quindi con già un processore decoroso. Processore decoroso, 320 giga di disco fisso. Quindi effettivamente uno dice, compro una roba da 1000 euro, da 1200 euro, ma perché? Ma anche a 700 euro, cioè, sì, ti dico, la Spire S3 costa 699, che è il modello base, e perché? È più sottile. Alla fine... Ecco, però detto questo, tu che li hai provati tutti, effettivamente spendere questo delta in più vale la pena? Cioè, i vantaggi sono assolutamente percepiti? Beh, il vantaggio è intanto che in borsa ti pesa meno di uno da 15 pollici, che costa 2 kg, che pesa 2,5 kg. Dillo chi porta la valigetta tutti i giorni, si spacca la schiena, cioè un chilo in meno fa la differenza. Soprattutto l'ultrabook è personal, cioè si parla di personal computer. L'ultrabook è personal perché lo metti in borsa e te lo tieni sempre dietro, quindi è sempre con te. Nell'era del cloud, nell'era del social network, in cui ciascuno deve comunicare, l'ultrabook è l'ideale perché è la tastiera ed è sottile. Quindi sì, vale la pena, bisogna far comprendere perché spendono un po' di più. Cioè, lo si capisce quando poi ti spezzi la schiena con 2,5 kg, sì, di portatile. Diciamo, la categoria di, chiamiamoli ultra portatili, perché stiamo parlando insomma di questa categoria, se sul mercato oggi ci sono cose che non sono ultrabook, cioè quindi che non con processore Intel eccetera, o dobbiamo andare su Apple se vogliamo rimanere in questa categoria di cose leggere, molto veloci, performanti eccetera? Allora, ci sono i sub notebook, come dicevo prima, che quindi magari hanno processore AMD, sono più sottili eccetera. L'alternativa vera è il MacBook Air. MacBook Air è il punto di riferimento. Il punto di riferimento, diciamo, è anche quello che vende. Beh, di questo parleremo tra poco. Adesso sentiamo Pino che ci telefona dalla Francia. Pino, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie anche a voi per avermi chiamato. Dunque, volevo dire qualche considerazione. Innanzitutto, prego, sull'agenda digitale. Penso che dovremmo lavorare di più sulla semplificazione, perché vi dico che in Francia una dichiarazione di redditi è composta da 4 fogli e farla su internet si può fare benissimo in precompilazione, vale a dire arriva già precompilata, sì, basta segnarla digitalmente e il tutto funziona egregiamente. Pino, non per difendere il nostro Stato che come dire, si merita molto spesso delle freccette tirate addosso, però devo dire che su questo l'unico online dell'Agenzia delle Entrate è un ottimo prodotto e anche in questo caso, anche in Italia, si può fare già precompilata. Naturalmente non il primo anno, ma se uno la fa gli altri anni la trova già precompilata. In ogni caso si può semplificare, ma è più un problema non di tecnologia, ma di normativa fiscale. Detto questo, andiamo avanti. Sì, d'accordo. Un altro punto è sulla i portatili e le smartphone. Il problema della batteria. L'autonomia è sempre limitata, già ho sentito altre trasmissioni precedenti di cui ne avete parlato. Volevo sapere sui progressi sulle batterie. Ho sentito dire anche che sono progrediti, naturalmente, ma l'hardware è maggiormente progredito, quindi le batterie non ce la fanno a star dietro. Sulle pile combustibili ci sono dei progetti, per esempio con le ricariche all'etanolo. Volevo sapere se c'è stato un avanzamento in proposito. Grazie Pino, però sono curioso, da dove ci chiama? Dalla Francia, perché la Francia è grande. Siamo esattamente a 80 km a ovest di Parigi. Benissimo. Vicino a Evreux, dove c'è una bella cattedrale. Molto bene, Pino, io ti ringrazio, ci diamo del tu per l'ascolto, per averci chiamato. Lo dico anche agli altri ascoltatori che ci ascoltano dall'estero, perché ci sono ascoltatori che ci ascoltano via internet. Se volete chiamare potete utilizzare non il numero verde, perché effettivamente il numero verde non funziona dall'estero, potete utilizzare il centralino del Sole 24 Ore 02 30 22 1, poi farvi passare naturalmente il centralino di Radio 24. Luca, a proposito di batterie. Sì, ci sono esperimenti all'etanolo, con altre tecnologie, a combustibile, eccetera. Celle a combustibile. Celle a combustibile, sì. Hanno anche provato a fare esperimenti integrando nei portatili, negli smartphone. Il problema vero è la tecnologia, è l'affidabilità della tecnologia, la sicurezza. Cioè, allo stato attuale le batterie che vengono utilizzate, agli ioni di litio, eccetera, sono sicure in qualunque contesto di utilizzo. Tutte le altre tecnologie devono essere stabilizzate. In particolare l'etanolo, che è un combustibile. Quindi si gioca più a ridurre l'impatto dell'hardware, quindi con algoritmi del sistema operativo, con tecnologie software, con intervenendo sui processori, sull'hardware, efficientando, come si usa dire oggi, l'hardware. Per esempio la generazione Ivy Bridge di Intel, la seconda generazione di consuma meno. Consuma molto meno perché utilizza una tecnologia totalmente nuova di costruzione del processore, che è più semplice. È molto più semplice perché si parte da un preconcetto, cioè la batteria che c'è adesso è stabile, è una tecnologia affidabile, collaudata, eccetera. Nel frattempo sviluppiamo altre tecnologie, ma intanto riduciamo l'impatto dell'hardware. Consideriamo anche un'altra cosa, che si può intervenire all'infinito sul processore, ma quello che consuma tanto alla fine è il display, che consuma più della metà, impatta più della metà sul consumo della batteria. Quindi c'è stata un'evoluzione marginale anche lì, cioè dai display LED, LCD, illuminati a lampade laterali, si è passato ai LED come certo, televisori. Però la prossima tanto, evoluzione sì. È l'OLED, e lì sì che ci sarà un impatto notevole. Sì, però per il momento stiamo usando LED. Sì. Bene, ci fermiamo per un paio di minuti, c'è la pubblicità. Vi ricordo il nostro numero verde se volete chiamarci in diretta per parlare di portatili, che è uno strumento ben più popolare che i tablet, di cui parliamo molto. Dicevo, numero verde 800 24 00 24. A tra poco. 2024. Vi ricordo che anche questa puntata di 2024 sarà disponibile all'interno del servizio podcast di Radio 24, www.radio24.it. Questo è il nostro sito internet, lì trovate tutte le istruzioni per abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Anzi, cosa che uso dire da qualche giorno anche su Twitter, è partita la campagna abbonamenti estiva per 2024. Il podcast è un'ottima occasione perché vi potete fare una bella collezione di trasmissioni di 2024 e ve le portate in spiaggia oppure mentre passeggiate in una pineta o in un bosco in montagna e vi ascoltate Luca Figini che parla di portatili, ad esempio. Sì, mi annoio un po'. Senti, Luca, abbiamo detto di Apple, perché tutto è partito questa settimana dagli annunci di Apple. Qual è la strategia? Cioè, a proposito di segmentazione del mercato, che cosa fa Apple? Apple offre due famiglie, gli Air e MacBook Pro. Ormai sono queste due qui i due cavalli da traino di Apple. Soprattutto Apple sta attuando una strategia che è molto interessante, ovvero si pone come reale innovatrice. So che magari qualche ascoltatore dirà si parla sempre di Apple, si parla di Apple, però in realtà le novità introdotte da Apple nel mercato PC negli ultimi due anni sono sostanziali. Si pensi agli Ultrabook, che sono una conseguenza diretta del MacBook Air, dell'esperimento fatto da Apple col MacBook Air. Col MacBook Pro ha ulteriormente alzato l'asticella introducendo questo modello con la Retina Display. E il Retina Display non è importante solo perché è un display super definito, e l'ho visto giusto l'altro ieri dal vivo, è qualcosa di spettacolare il Retina Display. È come quello dall'iPad. Infatti il vero concetto interessante di Apple, del MacBook Pro con Retina, è che c'è una transumanza delle tecnologie sviluppate con iPad, con iPhone, sul PC. È come dire che guardando un po' più in là si vede una sorta di punto di contatto tra le tre categorie PC, tablet e iPhone, perché quello che Apple impara a sviluppare in mobilità lo sta portando su tutta la sua gamma di prodotti, e questa è la cosa fondamentale. Anche col sistema operativo Mountain Lion macOS X 10.8 introduce tutta una serie di funzioni e novità che ha sviluppato e che ha ponderato e che ha collaudato su iPhone e iPad, e questa è una traiettoria fondamentale perché tutti i produttori di PC prima o poi dovranno arrivare a patti facendo coesistere tablet, PC e smartphone, perché questo è quello che succederà da qua a 5 anni, che è un po' quello che dovrebbe succedere con Windows 8. È quello che permetterà di fare ai produttori PC con Windows 8. Il problema è che Apple ha iniziato prima la strada e certo. La sta portando avanti con le sue forze. Senti, a proposito di Windows 8, è vero che domani, anzi no, lunedì c'è un evento dedicato a Windows 8, forse Windows Phone? C'è un evento dedicato a Windows. A Windows. Presumibilmente sarà Windows 8, anche perché, visto che c'è stato settimana scorsa quello di Apple, vorranno anche dire anche loro cosa stanno facendo. Sì. Windows 8 è già provabile ad oggi, è scaricabile dal sito di Microsoft. Sì, però quindi parliamo delle persone normali che non vanno a scaricarsi le robe. Cioè non si vanno a iscrivere come sviluppatore al programma, eccetera. Senti, c'è alcune domande su questo tono che riassumo in questo modo. Tu prima parlavi degli ultrabook e il concorrente, o meglio, gli ultrabook sono concorrenti del MacBook Air, molto sottile, eccetera, eccetera. Quanto costano queste cose? MacBook Air quanto costa? MacBook Air si parte con l'11 pollici a 1079 euro, a 2000. A parità di prezzo, perché uno dovrebbe comprarsi un ultrabook? La scelta iniziale è sul sistema operativo. Ah, ok. La prima considerazione è questa, cioè il MacBook Air è Mac, posto che gli applicativi che si trovano per Windows ci sono anche per Mac, magari non c'è tutta la scelta di sistemi, Windows, però certo, tutti quei fondamentali ci sono e qualcuno di più anche per Mac. La prima domanda da farsi è cosa ci devo fare col computer, se ci devo scrivere, usare i social e quant'altro, sono fondamentalmente equivalenti. Sentiamo Andrea da Bologna, buongiorno Andrea. Sì, salve. Prego. Infatti mi avete già anche risposto, perché io sono un classico barbone, nel senso che profano e pochi soldi, e sentivo che, siccome io sono stato terremotato, diciamo, a Sant'Agostino, nel senso che con un PC fisso a pedali, nel senso un vecchio XP, eccetera, dopo il terremoto ho smesso di andare, Fastweb mi dice che è tutto a posto, ma in realtà lì nella zona molti non hanno più la connessione, ma non so, era il momento di cambiare, volevo riprendermi un portatile che già l'avevo avuto per lavoro e quant'altro. Detto questo, sui 500 euro mi sembrava di capire un qualsiasi PC portatile, io non chiedo niente di particolare, però potrei benissimo anche prendermi un tablet, anche 700 euro, non è questo il punto. Quindi ripeto, avete già in parte risposto. No, ma Andrea, guarda che i tablet costano addirittura molto meno, ma non stiamo parlando di computer portatili. Lei che cosa deve fare col computer? Ecco, semplicemente adesso giocare, nel senso andare su Facebook, social network, guardare ogni tanto la posta, ma niente lavoro. Nient'altro, ecco, di più. Nient'altro, sì. Perché i libri, per esempio, l'ebook mi interessa relativamente, perché sono ancora troppo affezionato al cartaceo. Andrea, grazie per averci chiamato, in bocca al lupo per la situazione, insomma, dell'Emilia, visto che poi io sono emiliano, insomma, sono più vicino psicologicamente rispetto ad altri. Però mi ha fatto venire in mente una cosa, Andrea, dovremmo dedicare, su questo chiedo scusa, nel senso che dovremmo parlare proprio di internet in quelle zone, perché effettivamente alcuni problemi ci sono e ci potrebbero essere. Allora magari sarebbe il caso di portare un po' di WiMAX, di fare delle operazioni un po' straordinarie. Ma chiusa la parentesi, Luca, rispondo all'ascoltatore. Sì. Allora, fai una considerazione, perché qua sennò potremmo parlare 4 ore. Mi permetto di fare 2 considerazioni per rispondere alla domanda. La prima è questa: non scegliere tra tablet e portatile, nel senso, mi rendo conto che in questo periodo, soprattutto in questa condizione economica di vacche magre, i soldi sono quelli, quindi non posso scegliere tutte e due, quindi se ho dei soldi compro lo smartphone, compro il tablet e non cambio il computer. Però in realtà non sono dispositivi equivalenti, sono dispositivi complementari. Quindi il portatile è per scrivere, per produrre, il tablet è per consultare. Quindi se è solo una questione di consultazione, con 500 euro o 600, visto che magari non c'è neanche internet, un tablet con 3G integrato potrebbe essere ideale, perché uno se lo porta sempre in giro, soprattutto magari purtroppo in questa condizione potrebbe essere molto utile anche per avere internet ovunque. Però è un prodotto complementare il tablet, quindi bisognerebbe già avere un computer, non dico carrozzato, però abbastanza prestante. L'altra considerazione è sul gioco, mi ha fatto venire in mente un'idea. Sì. Perché gli ultrabook non sono per giocare, o meglio, intendiamoci. Il game su PC chi gioca ancora con i giochi. Sì, forse però Andrea intendeva giocare nel senso giocare perdere un po' di tempo su internet, esatto. Fare qualcosa, e non va... proprio giocare con uno sparatutto. E per perdere un po' di tempo e per navigare in internet va benissimo l'ultrabook, perché oltretutto è sottile, piccolo, dura 5, 6, sì, 7 sì, ore, sì. Eccetera. Però sul gioco, prima non l'ho citato, gli ultrabook non sono fatti per giocare, quindi se qualcuno di noi cerca un computer per giocare, posto che oggi si gioca Angry Birds e qui non si gioca a giochi 3D, ma se si vuole un computer per giocare, gli ultrabook non sono una scelta da fare. Cioè, cosa bisogna comprare? Bisognerebbe comprare un desktop replacement. È quello che viene detto, un desktop replacement, quantomeno un computer con una serie grafica Nvidia o altro. Dunque, senti un po', ma i netbook, sono questi computer portatili piccolini, 10 pollici, abbastanza leggeri, ma soprattutto che costano poco. Steve Jobs aveva detto, i netbooks sono meglio in nulla. Effettivamente io concordo, secondo me fanno schifo, però... Lui ha usato il termine ciarpame al tempo, se non ricordo male. Poi in realtà poi ne ha fatto uno che non è proprio un netbook, però insomma il MacBook Air da 11 pollici, molte delle idee ce le ha. Molte delle ce le ha. Sì, allora, giusto ieri parlavo con l'amministratore delegato italiano di Acer, e parlavamo proprio anche di netbook. Acer ha il 50% del mercato netbook in Italia, e lui ha detto una frase interessante, cioè anche io li davo quasi per morenti, perché vi faccio un esempio, in Italia si vendono in un trimestre 80.000 netbook, e si vendono 300.000 tablet, e si vendono 800.000 portatili, quindi è 1 a 10 il rapporto. Trimestre o all'anno? In un trimestre in Italia, dati Sirma. 300.000 tablet? Sì. Però. 1.200.000 di tablet, l'anno scorso sono stati venduti circa però. 1 milione di tablet, quest'anno 1.200.000 sì. Più o meno. Però lui diceva, non sottovalutiamoli, perché con Windows 8 e quindi con l'effetto frullatore di Windows 8 che mischierà il PC al tablet, al touchscreen, ai formati più compatti, il netbook potrebbe avere una nuova forma di vita, come computer economico ultra portatile. Quindi una sorta di, diciamo, di social computer, potrebbe trasformarsi in una sorta di social computer per chi magari vuole essere social ma non si trova a suo agio con la tastiera virtuale di un tablet. Allo stato attuale, per come sono proposti sia dai produttori sia nei negozi, sì, diventa una versione low cost del portatile più ingombrante. Sì, quindi non li sconsigliamo, io li sconsiglierei però, sì, io li comprerei. Ma cosa... Antonio da Napoli, buongiorno Antonio. Prego. Io volevo dire questo, noto con grande piacere che finalmente ci propongono qualcosa con, cioè, un portatile, un computer con uno schermo con una risoluzione, diciamo, degna del terzo millennio, con questo nuovo MacBook, questa alta risoluzione. Sì. Io è da molto tempo, da tantissimi anni, che uso schermi con elevata densità di pixel, con grosso incremento della produttività, e al dispetto di quella cosa che si sente dire spesso, quando c'è la risoluzione alta, se lo schermo non è enorme, non si vede niente, i caratteri sono piccoli, sa, queste cose che in effetti non sono mai state vere, nel senso che basta incrementare il font per chi ha una vista non particolarmente efficace. E volevo chiedere una cosa al riguardo, se finalmente possiamo quindi aspettarci che questa mossa della Apple spinge gli altri produttori a produrre qualcosa di analogo, e quindi anche di poter avere sulla scrivania un display, non so, di 24 pollici o anche di più, con una risoluzione retina o insomma qualcosa di più di questo genere. Ecco questo. E poi un'altra cosa, se ci sono notizie riguardo all'adozione del 3D, non soltanto per, non so, film, movies o videogiochi, ma anche per qualcosa, non so, di educativo, che ne so, se io sono appassionato di chimica e voglio vedere le molecole su uno schermo in tre dimensioni, c'è qualche tool che... Questa è una bella domanda, sì. Antonio, grazie per averci chiamato, buon ascolto. Adesso abbiamo le notizie che arrivano da Strade e Autostrade, quindi noi ci risentiamo tra un minuto. 2024. 16:47 minuti, l'ultima parte di 2024. Luca Figini, allora, la scelta di Apple di introdurre Retina Display anche nel nuovo portatile, il MacBook Pro, in uno insomma, di questi portatili, potrebbe spingere, come diceva poco fa il nostro ascoltatore, anche gli altri produttori a ad aumentare la risoluzione. Allora, diciamo subito che Retina Display è una tecnologia solo Apple, non è come Full HD che è uno standard che hanno tutti. No, Retina è una tecnologia costruttiva, tra l'altro di LG. LG che ha sperimentato e sviluppato questa tecnologia l'ha concessa in licenza ad Apple. Quindi quando si parla di Retina Display si parla di un display costruito con una tecnologia particolare che permette di supportare altre risoluzioni perché gestisce una maggiore densità di pixel, quindi per quello molto più del Full HD. Sì, beh, ti parlo di 15 pollici del MacBook Pro, display 15 pollici MacBook Pro ha una risoluzione di 2880x1800 pixel, cioè ti faccio un esempio, l'ho visto l'altro giorno. Con questa risoluzione vedi un filmato in Full HD, quindi 1920x1080, che occupa circa un quarto dell'area disponibile, per assurdo. Cioè, e lo vedi a schermo pieno. E lo vedi a schermo pieno. Infatti ho visto per esempio un software di montaggio video che faceva vedere nell'angolo in alto a destra al 100% un Full HD e c'era tutto lo spazio per la timeline e per gli strumenti di produzione. Porterà i PC? Sì, li porterà, perché il vantaggio di avere una risoluzione così ampia è di avere un'area disponibile molto più estesa e quindi quando si fa l'abitudine, soprattutto in certi ambiti, certo rimarrà una tecnologia probabilmente in questa fase per la fascia alta del mercato, ma lo porterà perché la comodità è evidente. Però attualmente più del Full HD non c'è nulla sul mercato. In questo momento più del Full HD no. Il Full HD è il top in questo momento. Rispondendo sulla parte di prodotti, di contenuti educational per il 3D, da quello che ci risulta anche a me, c'è molto poco sul mercato attualmente. Però è una domanda insomma che ci segniamo, ci informeremo. Luca, tornando alla diffusione del mercato, volevo capire se c'è una tendenza, come si è detto, almeno in una parte del mercato, a sostituire i portatili con i tablet o mica tanto? Il PC portatile, il computer portatile è sotto attacco non solo dal tablet ma anche dallo smartphone, nel senso che c'è gente che si accontenta dello smartphone, dice faccio delle cose con lo smartphone. Alla fine quello che succede è che le prestazioni bastano. Nel momento in cui tu hai un computer che ha 2-3 anni riesci a fare tutto tranquillamente, anzi è ancora buono per divertirsi e per fare tutto quello che si fa in ufficio a casa, non sono cambiate le esigenze da qui a 3 anni, quindi se ho un certo potere di investimento, 3, 4, 500 euro cambio dispositivo, e quindi la concorrenza del computer non è solo all'interno del mercato computer ma è all'esterno, perché lo smartphone per esempio è più connesso, è percepito meglio perché è percepito più la moda, e comunque è un prodotto che verosimilmente si avvicinerà al computer. Idem il tablet, è un oggetto più fresco che introduce un modo di utilizzo delle stesse funzioni ma totalmente nuovo, più friendly, come dicono gli americani, quindi lo tocchi, c'è il touchscreen, vedi un po' di cose nuove. E quindi quello che succede è che le persone magari tendono a sperimentare un prodotto che non hanno, che è lo smartphone più voluto, che è il tablet, piuttosto che comprare un computer con cui farebbero le stesse cose. Questo ragionamento non sarà più vero quando arriverà Windows 8, perché a quel punto lo stimolo di acquisto sarà diverso. Windows 8 introdurrà tutta una serie di nuovi formati, che ne so, il tablet con la tastiera che si monta con la docking station che diventa un computer portatile, poi lo stacchi, il display diventa un touchscreen. Aumenterà la confusione ma potrebbe anche aiutare a formalizzare determinati mercati, perché effettivamente quando giustamente un ascoltatore dice datemi qualche consiglio per acquistare il computer, il mercato si è così tanto dilatato con prodotti talmente diversi per cui bisogna effettivamente pensare molto bene a cosa si deve fare. Chiudiamo ascoltando Carolina Milanesi su Nokia, perché ci sono delle notizie non tanto buone su Nokia. Abbiamo sentito proprio questa settimana due notizie negative. Una, il numero delle persone che Nokia sta guardando a licenziare, a mettere in cassa integrazione, che sono 10.000, un numero grande sicuramente, ma dobbiamo anche ricordarci che la Nokia ha più di 100.000 impiegati a livello mondiale. E l'altro, che le aspettative per il secondo e il terzo trimestre rimangono ancora diciamo negative e più contenute rispetto a quello che era la visione iniziale fatta alla fine del primo trimestre. E questo diciamo a livello così, di risultati è secondo me un sentimento che viene da un mix tra il problema che Nokia continua ad avere, che è quello di convincere i consumatori che hanno ritrovato l'edge, hanno ritrovato il design, hanno ritrovato con Windows una piattaforma che è capace di essere competitiva, ma l'altro un discorso proprio di economia che in Europa sta negativamente impattando la parte mobile, non tanto quanto il numero dei telefoni venduti, il numero di pezzi venduti, ma i soldi che vengono spesi per questi telefoni, specialmente in un momento in cui ci sono i cinesi come ZTE e Huawei che danno la possibilità al consumatore di comprare dei telefoni che hanno adesso una qualità molto superiore rispetto a quello che le aziende mettevano sul mercato un anno fa, ma ad un prezzo molto inferiore quando paragonato a un HTC piuttosto che a un Samsung o una Nokia. E quindi Nokia si ritrova in questa situazione dove il consumatore si aspetta di più da Nokia, magari non sempre diciamo in una maniera conscia, ma si aspetta un po' di più per quello che Nokia può offrire adesso. Eh sì, problemi di percezione, questo è sicuramente un grosso problema del mercato, perché come diceva Carolina Milanesi, i prodotti sono sicuramente ottimi e competitivi, almeno per una buona parte del mercato e dei consumatori, ma molti comprano altro anche solo per un percepito diverso. Grazie a Luca Figini, che è responsabile di portatili e tablet e collaboratore del Sole 24 Ore. Ciao Luca, a presto. Ciao, grazie a voi, buona domenica. Prima di salutarci in questa puntata di 2024 vogliamo parlare del mercato ICT in Italia, che cala anche nel 2011 e le previsioni per il 2012 non sono certo positive. Ne abbiamo parlato dopo la presentazione dei dati Assinform di questa settimana, il 43esimo rapporto Assinform. Diciamo, abbiamo parlato con il presidente dell'associazione che rappresenta il mondo ICT in Italia, Paolo Angelucci. Allora, il mercato ovviamente non si è comportato molto bene, nel senso che il mercato dell'ICT è sceso di circa il 3,5% quest'anno, con un dettaglio abbastanza analogo tra le TLC, il 4,1 e l'IT 3,6. Questa situazione ovviamente non è favorevole, perché se le aziende non investono in CT non investono in innovazione. Noi da quest'anno però abbiamo un po' modificato il punto di vista, perché abbiamo allargato il mercato ICT classico, quello tradizionale che come ho detto scende pesantemente, con nuovi settori o contigui o non classificati prima, che hanno una forte componente ICT. Questo ha fatto sì che il mercato è salito dai 58 milioni del mercato tradizionale ai 69 di quello allargato, il Global Digital Market, come lo chiamiamo noi. E oltretutto identificando a questo punto due trend di mercato diametralmente opposti, nel senso che le componenti tradizionali diminuiscono in due anni di circa il 6%, le componenti innovative aumentano al contrario in due anni di più del 13%. Quali sono queste componenti? Le componenti innovative sono o quelle proprio nuove, tipo i tablet, tipo tutti il software del web, tutta quella che viene chiamata l'Internet of Things, quindi cose che sono proprio nuove, nate adesso, sia l'allargamento di settori invece conosciuti ma che si stanno trasformando in settore ICT. Uno per tutti è il settore, per esempio, della videosorveglianza, che prima era un fatto puramente analogico, oggi è completamente digitale ed è gestito a livello di sistema informativo. Stesso discorso, tutta la parte tecnologica in CT delle apparecchiature medicali. Quindi sono tutte cose che sono nuove per la nostra classificazione, ma che in realtà poi insistono sullo stesso perimetro di occupazione. Abbiamo aggiunto poi, oltretutto, perché è una componente fondamentale, il settore dei contenuti digitali, che prima non c'era, ma che di fatto anch'essi ovviamente hanno questa forte componente digitale. Senti, è pur vero che se uno guarda a una parte di quella che voi definite componente tradizionale, buona parte di questa componente, vale a dire software per le aziende, investimenti in server, eccetera, eccetera, è una componente che darebbe un impulso molto forte in termini di competitività alle imprese e al paese. Ci può spiegare quale rapporto c'è tra questo investimento delle imprese e la competitività internazionale, sia delle imprese che del paese? Allora, direi che dovremmo spaccare l'investimento ICT delle imprese in due aree, diciamo le spese di funzionamento e le spese per l'incremento del business. Le spese di funzionamento ci sono molte di quelle che hai ricordato, le spese per la contabilità, le spese per la gestione degli ordini, le spese per la stessa infrastruttura, sono delle spese di funzionamento. Al contrario, molte delle aree innovative sono proprio relative alle aree di business, quindi il motivo per cui le imprese dovrebbero investire in ICT è perché se guardano l'investimento dal punto di vista del business non può che essere facilitato se si lavora con questi paradigmi che abbiamo appena detto. Quindi stare più vicino ai clienti, lavorare tramite web, utilizzare la parte multimediale. Pensi solamente alla possibilità di far vedere un prodotto su web anziché mandare un catalogo. Oppure ancora la gestione automatizzata della forza vendita. Tutte queste attività consentono di sviluppare il business. Quindi quello che le imprese dovrebbero guardare è quale apporto possono dare le attività di tipo ICT allo sviluppo dei processi che condizionano o amplificano il business. Però lei ci diceva che esiste un rapporto misurabile tra investimento in ICT e competizione. Assolutamente sì, esiste un diagramma assolutamente empirico, ma ormai che ha 20 anni di vita, dove si vede che sia gli stati che le imprese che investono di più in ICT sono quelle che crescono di più. C'è l'America che stabilmente da anni è in un ipotetico diagramma di rapporto tra spesa in ICT alta e crescita, sempre in alto a destra, perché investe moltissimo nell'ICT. E molte imprese moderne che hanno fatto e sono fiore all'occhiello del Made in Italy investono in ICT il doppio di quello che investono nelle imprese. Le imprese italiane investono in ICT intorno all'1% del fatturato. Queste imprese avanzate, manifatturiere, attenzione, non servizi, servizi è un altro discorso, investono tra il 2 e il 3%. Quindi vuol dire che investire in ICT buono ovviamente, è sicuramente un vantaggio competitivo per l'azienda. Ed è tutto per questa puntata di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre per la vostra attenzione. Potete scriverci durante la settimana a 2024@radio24.it. Potete anche utilizzare Facebook, la nostra pagina su Facebook, la trovate molto facilmente scrivendo 2024, oppure potete utilizzare Twitter per seguire i lanci di 2024, la trovate facilmente @2024_r24, oppure potete seguirmi anche con @e_Pagliarini, comunque cercando Enrico Pagliarini mi trovate su Twitter. Insomma, ci sono tanti modi per interagire, per parlare con 2024 e seguirci anche durante la settimana. Ci risentiamo sabato prossimo in onda alle 15.30 e fino alle 17. Un buon ascolto con i nostri programmi in podcast. 2024.